Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, con enorme piacere che oggi sono qui. Io sono Caterina e per me oggi è la prima trasmissione dopo la pausa, ma è anche la prima trasmissione che faccio da sola e ho già qualche problema con il sottofondo che ci dovrebbe essere e non c'è. Eccoci, perché non c'è? Perché non ho spinto play, mi sembra la cosa più semplice, ma va bene, ecco, allora. Dicevo, come avete potuto notare, sono da sola e ho già combinato abbastanza guai, perché con me in realtà ci doveva stare Pina, però per impegni di lavoro all'ultimo momento è dovuta partire, quindi non ci sarà. Io sono da sola qui in studio, ma non mi sento sola, prima perché ci sono tutte le compagne di Radio Onda Rossa che gentilmente mi stanno accudendo, molto gentilmente. E poi perché io so che voi ci siete, certo che se mi fate pure qualche trillino sono ancora più contenta. E chiedo scusa ancora per tutti gli errori tecnici e non che combinerò oggi, e anche perché magari non risponderò al telefono, non mi fate fare pure questo, se no veramente do i numeri. Io sono piena di entusiasmo e di buone intenzioni e mi auguro che anche per voi sia lo stesso. A proposito di buone intenzioni, mettete in conto la spesa di una piccola cifra da versare per la radio, che ha bisogno come non mai di contributi che servono per difendere la frequenza degli 87,9, attraverso la quale ancora c'è la possibilità di dare e avere informazioni reali, non telecomandate o teleguidate. C'è la possibilità attraverso questi microfoni di continuare a dare voce a chi altrimenti avrebbe molta difficoltà a farsi sentire. Si accettano anche contributi da fuori Roma? Assolutamente sì. Per esempio tutte coloro che ci stanno ascoltando e che sono un po' sparse per tutta Italia possono sicuramente darci una mano con un piccolo aiuto finanziario. Per ulteriori informazioni è meglio telefonare qui in radio, daranno le indicazioni del conto corrente e il numero della radio è 06 49 17 50. Bene, fatto questo breve appello, torniamo a noi. Questa è la nostra trasmissione numero 108. Allora, io lo so che a volte potrà sembrare che diamo i numeri, ma non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, anche se quelle due amabili ragazzuole della settimana scorsa hanno detto che la loro trasmissione era la 105, come si dice a Roma, errore. La 105 in realtà è andata in onda a giugno e a luglio c'è stata anche una 106, onde per cui la settimana scorsa era la 107 e oggi trattasi appunto della numero 108. Dunque torniamo a noi, l'ho già detto mi sembra, sì, non fa niente, lo dico ancora e non perdo più tempo. In fin dei conti penso che al di là di quella che è la numerazione, l'importante è stare qui. Allora, ricordo che tutte le donne possono proporre argomenti o intervenire sui nostri. Il mezzo più rapido per contattarci è quello di utilizzare la nostra email, che è contatti@clrbp.it. Il mezzo più rapido per conoscerci è visitare il nostro sito, che è www.clrbp.it. E va bene, io mi accorgo di aver parlato veramente tanto, per cui mando subito un brano, datemi soltanto qualche secondo per cambiare il CD e ascoltiamo insieme Alain Morissette con il brano 21 Things. You touch me, so natural. The way you run your fingers through my hair, it's so natural. riprendiamo. Dunque, adesso vi leggerò un articolo che ha scritto Annalisa e che gentilmente mi ha passato per questa trasmissione, che come al solito trovo fatto molto bene. Allora, parla di lesbiche e cinema. It's so natural. Vorrei parlare degli ultimi film che sono passati nei cinema italiani e che hanno la pretesa di raccontare storie lesbiche o di rappresentare il lesbismo in alcune forme che io trovo assolutamente fuori dalla realtà. Mi riferisco per esempio a La Répétition della regista francese Catherine Corsini, che racconta la relazione tra due donne, due amiche di sempre, Louise e Nathalie, legate da un rapporto inizialmente ambiguo che diventa rapidamente angosciante ed opprimente perché Louise è innamorata di Nathalie e tenta il suicidio dopo averla vista baciare un ragazzo. Oddio, eccone un'altra di lesbica suicida. Dopo una lunga separazione si rincontrano e finalmente Louise, dopo dialoghi, sguardi, scene estenuanti, si decide a dichiarare il proprio amore per Nathalie. Forse anche raccogliendo l'invito, anzi no, la silenziosa supplica di tutte noi sedute in sala. Ma Nathalie, dopo una notte d'amore, non ne vuole sapere, dimostrandosi totalmente incapace di amare Louise come un amante e ancor meno come un'amica. E Louise come reagisce? Questa volta non si suicida, ma per vendetta, per poco non lascia crepare l'amica nel suo letto in preda ad un attacco di peritonite. La scena del soccorso che arriva e di lei che non va ad aprire la porta è da crisi isterica. No, pensavo, non puoi fare anche la parte della lesbica stronza e vendicativa. Alla fine di due minuti, e dicasi due minuti di orologio di suono del campanello, Louise finalmente va ad aprire la porta e Nathalie si salva. Ma il finale è ancora più irritante. Louise, l'amica innamorata pazza di una donna, alla fine lo sapete che cosa fa? Si vede con il fidanzato dell'altra. Bello, no? You touch my very soul. Quando hanno riacceso le luci ci siamo guardate un po' tutte. Io e la mia amica avevamo i nervi a fior di pelle. Ho voluto allora andare a rileggere le recensioni. Tutte a favore, tutte che dicevano che era un gran film, lontano dai cliché classici, cliché che rappresentano le storie omosessuali. Un gran film lontano dai cliché. Io direi soltanto un film troppo lontano. E come se non bastasse, Lietta Tornabuoni, in una recensione dell'Espresso, dice: la regista è riuscita a raccontare un amore tra donne, infelice e prigioniero come tanti altri amori, senza essere mai ridicola. È un record interessante, assai raro semplicemente nei film d'amore omosessuale. Il film immagina di descrivere l'isterismo delle donne nelle ore di stretta intimità. Grazie Lietta, molto gentile, ma io non credo di essermi mai sentita isterica nelle ore di intimità e non credo che un film, per non essere ridicolo, debba raccontare una storia totalmente estranea alla realtà. In questo modo si insinua, in chi lo guarda, il pericoloso sospetto che essere lesbiche equivalga ad essere schizofreniche. Si fa poi confusione tra amore omosessuale e patologica ossessione. Proprio questa patologica ossessione pervade la protagonista del film in oggetto, ossessione fatta di invidia e di gelosia nei confronti di un'amica. E il finale poi è molto, e credimi, molto originale, ai confini della fantascienza. Così io e la mia amica aspettavamo da giorni l'arrivo dell'ultimo film di Lea Poole. Per forza, da quando abbiamo visto i manifesti che tappezzavano Roma con la foto di due donne che si baciavano. No, è uscito l'ultimo film di Lea Poole, L'altra metà dell'amore, sarà bellissimo finalmente. Un film a tematica lesbica fatto da una regista lesbica. Vi dico in breve la trama. Mouse, e già qui il nome è tutto un programma, perché una che si chiama Topa la dice lunga, arriva al Perkins Girl College, un college per sole ragazze, lasciandosi alle spalle la piccola città dove è cresciuta, il padre e la sua matrigna. Ha perso da poco tempo sua madre naturale ed il dolore per questa perdita non si è ancora dissipato. Troverà però conforto nell'amicizia con le sue due compagne di stanza, l'anticonformista Pauline e la bella Tori, innamorate pazze l'una dell'altra. Mouse piano piano, ma proprio piano piano, capisce la relazione d'amore tra le due compagne. Ma solo una scema può capire una cosa del genere così dopo tanto tempo, perché si sentono i gemiti tutte le notti. Inoltre stanno sempre nude e si baciano. Comunque, quando finalmente alla fine capisce, non sembra turbata. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando un giorno le due ragazze vengono scoperte nello stesso letto nude anche dalle altre compagne del college. Tori, terrorizzata dal giudizio dei genitori e dalla società dinanzi alla sua storia lesbica, decide di rinunciare all'amore buttandosi in una storia con un ragazzo. Pauline, che vive invece di quell'amore, tenta di tutto per riconquistare Tori, perfino sfidare al duello il rivale. Alla fine si suicida con il falco che in precedenza però aveva accudito e guarito. Anche in questo caso le recensioni sono tutte estremamente positive e su un sito ho letto alcuni commenti di lesbiche che parlavano di capolavoro, della rappresentazione dell'amore assoluto. Ma come si fa? In quale anno si è ambientato il film non lo so, ma so che Pauline, chiaramente lesbica anche se si ostina a dire che ama una donna e basta, cita Shakespeare. Beh certo, chi di noi non lo fa alla propria amata, accudisce un falco, certo, in tutte le case delle donne lesbiche ci sono falchi, non lo sapevate? Sfida a duello il fidanzato della sua amata. Veramente io non so neppure dove si compra una spada e alla fine si ammazza, ecco, mi sembrava giusto. Con quella deficiente di Mouse che chiude il film dicendo che adesso sa cosa non vuole diventare da grande e sa come affrontare la vita. Vale a dire diventare grande e vivere sicuramente non da lesbica. E questo è l'amore assoluto? A me sembra ancora una volta la rappresentazione di una ragazza malata, una paranoica e basta. Se non fosse stata Lea Poul, regista lesbica dichiarata, non avremmo avuto dubbi nel dire che questo è il solito film che parla delle lesbiche sbandate, pazzoidi, esaurite, piene di problemi, insisto, malate. Un film che lancia un messaggio assolutamente negativo nei confronti di chi è lesbica. Veramente non ne posso più. Mi aspettavo almeno da Lea Poul un'immagine della lesbica che poco poco mi rappresentasse. Ma che? Anch'io il primo amore pensavo fosse quello della mia vita. Anche lei ha preferito lasciarmi per un ragazzo perché voleva una famiglia. Anch'io avrei voluto morire. Ma non ho messo a soqquadri il ristorante, non mi sono messa a urlare in classe, sì perché lei era la mia compagna di liceo, né ho tantomeno tentato di ammazzarla, né mi sono ammazzata. E allora mi chiedo, ma sarò lesbica? Perché i gay devono parlare di amore felici, fanno film anche comici e noi lesbiche manco uno. Sempre queste pizze pesanti e noiose che angosciano e che ti levano la voglia di fare tutto per almeno una settimana. E poi io proprio non ci sto. Sono pure di Napoli e tanto tempo fa ho già dovuto combattere contro il pregiudizio. Napoli era rappresentata sempre come la città degli orrori e già i titoli mettevano paura. All'ombra nera del Vesuvio, oppure un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti. Ma adesso perché devo essere rappresentata così, tra le lesbiche sofferenti, cattive, malvagie, chiaramente psicotiche, cupe e che spesso e volentieri sono pure suicide? Se si ammazzassero pure gli altri potrei anche accontentarmi, ma sempre noi, noi lesbiche, dobbiamo essere le uniche a morire e a uccidere? E allora sapete cosa vi consiglio? Andate a vedere un altro film, uscito in questi giorni, dal titolo Kissing Jessica Stein. È come Out, ve lo ricordate, l'avete visto? Out al femminile, con richiami al cinema di Woody Allen. È un film che finalmente suscita allegria e risate in chiunque lo guardi. Lascia una positività e una voglia di vivere che lo fanno diventare un film fantastico sulle donne lesbiche. Opera prima di Charles Hernan Wurmfeld, che dirige un progetto sostenuto con ostinazione da Heather Jurgensen e Jennifer Westfeld, interpreti, sceneggiatrici e produttrici del film. Il tema del lesbismo è trattato con leggerezza e con naturalezza. L'originalità sta nel fatto che il film non è un invito esplicito alla tolleranza, nessun trauma emotivo o dilemma morale da superare a causa della scelta delle due donne. Si amano liberamente e pienamente, basta. Il film va oltre, dando tutti questi passaggi per scontati o non necessari e si sofferma su questa storia d'amore narrata con allegria, con spensieratezza. Qualcuno mi ha detto che però il finale è assurdo perché una delle due ragazze torna con il suo ex, ma io dico... E vabbè, e chi se ne frega? L'altra almeno non l'ammazza, non si ammazza, rimane una lesbica felice e poi per di più ha anche un'altra avventura. Ma volete mettere? Una piacevole commedia che contribuisce molto all'accettazione della diversità vista come una cosa assolutamente naturale. Altri film invece vogliono sembrare più profondi, ma rappresentano soltanto problemi psicologici camuffati e celati all'interno di storie poco probabili dove il lesbismo è solo un corollario. Si sa che l'argomento suscita interesse e frutta più soldi. Questi film non fanno altro che aumentare la lesbofobia già presente in molte delle realtà esistenti. Mi piacerebbe che questi film fossero censurati, una censura ben inteso, non per l'argomento trattato, il lesbismo, ma per come è rappresentato. Alimentano razzismo e intolleranza verso noi lesbiche. Quella che state ascoltando è Dido con il brano No Angel. Yeah. Adesso andiamo avanti con questa trasmissione. Io vi volevo parlare di un libro del quale penso più in là faremo una recensione un pochettino più dettagliata, ma vi dico già da adesso che è un libro al quale siamo molto legate, perché è con grande piacere che ci è arrivata una copia di Bellissima Pensata, edito dal Dito e la Luna, scritto dalle Spaventapassere. Allora, le ragazze delle Spaventapassere sono venute a Roma e a maggio dell'anno scorso hanno rappresentato da noi al Centro Femminista Separatista due serate del loro spettacolo spaventapassere.com. Le serate sono andate benissimo e molte donne hanno potuto godere delle battute ironiche, delle gag, del sarcasmo e della simpatia di queste ragazze. Sono veramente molto brave. Come Centro Femminista Separatista stiamo ipotizzando di farle tornare da noi, perché gradiremmo che loro stesse ci presentassero il libro, che è un concentrato di comicità. Per il momento mi limito a leggervi la loro introduzione. Un attimo soltanto. Un attimo che la cerco, eh? Eccola qui. Allora. Era notte, pioveva, c'era il sole. Era giorno allora? Forse sì. Ma è sempre notte quando devi andare ancora a dormire. E poi se era notte, era giorno, pioveva e c'era il sole, significa che c'era l'arcobaleno. Quindi c'era l'arcobaleno di notte, anche se era giorno, ma noi non avevamo ancora dormito. E non c'era tempo. Era estate, primavera, autunno, inverno. Indossavamo un bellissimo Moncler a stelle e strisce. Cantavamo l'inno nazionale italiano, indossavamo degli eccentrici sandali colorati, anche se una di noi, visto il caldo invernale soffocante e l'arcobaleno estivo, indossava gli anfibi militari nero hashish. Era notte, pioveva, c'era il sole e l'arcobaleno. Non chiudevamo occhio da 48 ore circa. Avevamo fumato almeno due pacchetti di sigarette a testa. Avevamo i nervi un po' tesi come le corde di un violino. Avevamo la chitarra. Avevamo comprato della carta igienica scadente e scaduta, quelle carte igieniche che con il caldo si sciolgono, quindi si sciolgono sempre. Era notte, pioveva, c'era il sole e l'arcobaleno.

Gli appuntamenti. Io lo sapevo che prima o poi facevo qualche macello, allora avevo mandato la sigla della musica lesbica indipendente invece di quella degli appuntamenti, va bene, comunque mi rifarò adesso leggendo degli appuntamenti bellissimi. Il primo fra tutte chiaramente è il nostro appuntamento consueto di Les Bollywood per il 24 ottobre con la proiezione del film L'assassinio di Sister George. Un film inglese del 1969, io lo consiglio perché soprattutto noi del coordinamento Lesbiche Romane siamo particolarmente affezionate a questo film, primo perché è uno dei pochi, anche essendo così datato, che dà veramente un'immagine del lesbismo veramente graziosa, bella, simpatica. E tra l'altro noi del coordinamento abbiamo dato il nome a questa trasmissione radiofonica su Radio Onda Rossa prendendo proprio una frase del film L'assassinio di Sister George. Infatti è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, è una frase significativa al massimo che dice proprio Sister George, per cui lo consiglio, non mancate, vi aspettiamo numerose. Ricordo che l'ingresso è riservato alle sole donne e che altro, comincia alle ore 21, ci sarà chiaramente un piccolo contributo per sovvenzionare le altre iniziative del centro. Vi aspettiamo allora giovedì 24 ottobre con la proiezione del film L'assassinio di Sister George. Me feel like I'm a lady. Natural, all the way you came. It's so natural. With hands so warm. Chiaramente non poteva mancare un momento di brivido per me, mi ero persa il libricino dove avevo annotato tutti gli appuntamenti, per fortuna l'ho ritrovato e quindi andiamo subito con il prossimo appuntamento. Allora, sabato 26 ottobre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma in via della Lungara 19 ci sarà Le teorie e le pratiche del femminismo di fronte agli interrogativi del presente, che è un seminario organizzato dall'AFFI e da un innumerevole numero di associazioni, per esempio Associazione per una libera università delle donne di Milano, Associazione Orlando di Bologna, Associazione Zora di Roma, Collettivo Priscilla di Verona, Fondazione Elvira Bardaracco di Milano, Gruppo Sconvegno di Milano, IFUN, Oslo, Milano, Il Filo di Arianna, Il Paese delle Donne, Unione Femminile Nazionale di Milano. Allora, interverranno dalle ore 10 Maria Luisa Boccia, Marina Zancan, Manuela Frair, Gabriella Frabotta, Paola Masi, Francesca Pozzi e Olivia Guaraldo. Dopo l'intervento i lavori riprenderanno alle ore 15 e interverranno Marina Pivetta, Lea Melandri, Paola Melchiori, Maria Schiavo, Raffaella Lamberti, Pina Nuzzo, che saluto personalmente, Barbara Romano e Sara Fichera. Mi premeva anche ricordarvi che tutte le notizie che sto per leggervi e che vi ho già letto sono prese dalla bollettina del CLI, che è il giornale che il collegamento lesbiche italiane fa ogni mese, e anche a questo giornale potete intervenire scrivendo dei brani Ok? Allora, dal 6 al 10 novembre si terrà a Firenze il primo social forum europeo, la versione Vecchio Mondo di Porto Alegre. Nel calendario vasto e variegato del forum, molti appuntamenti femministi e 3 incontri a tematica lesbica. Ci saranno anche dei workshop autogestiti organizzati in strutture vicine alla fortezza. Infatti, Azione Gay e Lesbica organizza l'incontro Lesbiche Gay e Neoliberismo, una riflessione collettiva su come il nuovo sistema economico influisce sulle nostre vite. Il coordinamento Lesbiche Italiane e Romane ha aderito a tutta l'iniziativa, dando la propria adesione in modo particolare a questo, a sostegno del gruppo dei lesbiche femministe di Barcellona, che ha organizzato un workshop contro il matrimonio. A partire dall'idea che questa istituzione rappresenta la rinuncia della collettività ad assumere la responsabilità delle necessità delle persone e l'abbandono all'ambito privato delle relazioni e di dipendenza, si propone l'abolizione del matrimonio. Per gli appuntamenti femministi invece è stata organizzata un'intera sessione. Per tutte le informazioni più specifiche che vorrete richiedere relative al Forum Sociale Europeo potete collegarvi a www.fse-esf.org. Allora, per ragioni di tempo, tra poco partirà la sigla, poi io continuerò a darvi una serie di notizie interessanti, quindi non ve ne andate, rimanete ancora con me, non mi fate sentire più sola di quella che già non sono. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it. Something's got a hold on me, yeah. Ed eccomi qua, l'avevo detto che era una finta, quindi continuiamo questo ultimo quarto d'ora da passare insieme dando una serie di notizie. Allora, nei giorni 15, 16 e 17 novembre a Napoli, Castel dell'Ovo, Sala delle Terrazze, l'associazione Le Tre Ghinee Nemesiache invita coloro che lo desiderano a partecipare o a intervenire all'incontro dedicato a Lina Mangiacapre. Parole, scritture, immagini, suoni per la trasmissione di un passato per sempre presente e proiettato al futuro. Per informazioni 320 0269031 oppure www.lilu.org. Un'altra notizia per noi molto importante, il 14° Festival di Cinema Lesbico Quand les lesbiennes se font du cinéma si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre a Parigi. Quest'anno la sede della manifestazione sarà il Trianon, grande teatro dei primi del Novecento a Pigalle, quartiere chic della capitale francese. Il festival, riservato, ricordo, alle sole donne, non ha avuto il finanziamento del Comune di Parigi, mentre sono stati concessi 30.000 euro al Festival Gay e Lesbico. E le organizzatrici si sono appellate alla parità di dignità culturale per riaprire la trattativa. Oltre alla ricca programmazione di film, sono previsti feste, incontri, mostra di artiste e concerto di inaugurazione. Per informazioni www.cinefable, che è scritto cinefable.fr.fm. Un'ultima notizia prima di mettere un brano. Dunque, Capodanno solo donne a Lizzola, Bergamo, sulla neve con o senza sci, organizzato da Lupe, lesbiche unite per esprimersi, di Milano, dal 27 dicembre al 1 gennaio, mezza pensione, cenone e festa di Capodanno. Info e prenotazioni entro il 1 dicembre al 347 7739918, oppure www.associazionelupe.it. Allora, adesso ci ascoltiamo un bellissimo brano musicale, l'artista è Gabrielle e il brano è Out of Reach. Knew the signs wasn't right, I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised, was I ever Questa bellissima voce di Gabrielle, vi leggo un'altra notiziola carina carina. La nona edizione di Le Donne Ridono, Biennale Internazionale dell'Umorismo, che si svolgerà a Ferrara nel maggio 2003, ha per titolo Ogni donna è un'isola. I lavori, le vignette, le strisce o le storie a fumetti vanno inviati entro il 31 gennaio 2003 al Centro Documentazione Donna, via Ticchioni 38-1. 4400 Ferrara. Per informazioni 053 253186, quindi date spazio alla vostra creatività e partecipate a questa nona edizione di Le Donne Ridono, Biennale Internazionale dell'Umorismo, che si svolgerà a Ferrara nel maggio 2003, quindi avete tutto il tempo di elaborare, organizzare e attuare le vostre vignette, le vostre scenette. Me.